E allora le 11:20 quasi, ancora Radionda Rossa, ancora in diretta, e questo spazio redazionale da un po' di tempo a questa parte si chiama appunto Africa in Movimento, che facciamo con i compagni, compagni e la compagna di, che si occupa appunto dei problemi africani, in particolare per seguire più da vicino e più all'interno e per andare ad analizzare, a cercare le cose meno eclatanti, insomma, meno che stanno meno sui giornali, però per capire queste rivolte, queste rivoluzioni, queste insurrezioni, i nomi per definirle sono tanti, ma noi dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo. E oggi c'è solo Anthony, non c'è Serena, la compagna. Salutiamo Anthony. Ciao Anthony, buongiorno. Ciao a tutti. E allora, oggi proviamo a fare un po' una panoramica, sempre un po' centrati sull'Egitto, perché intanto è il paese più, diciamo, più complesso, più interessante di questa rivolta, in quanto gli attori in campo sono più numerosi, si presenta uno scenario di lotta di classe abbastanza interessante, insomma, no? E poi probabilmente perché se ne sa un po' di più, perché appunto sono soggetti che parlano, che quindi hanno il loro modo di rapportarsi. E sulla Tunisia si sa un po' di meno, la situazione è anche un po' diversa. Sulla Libia addirittura non si sa niente, si sa solo che c'è uno scontro, attualmente sembra tutto militare, attualmente sono le armi che stanno decidendo il conflitto, sono scese in campo le armi pesanti e quindi sembra che non più la piazza ma gli eserciti stiano parlando. E poi però c'è per esempio la repressione avvenuta in Arabia Saudita il venerdì, ieri doveva essere il venerdì dell'Arabia, pesantemente il regime, che invece il giorno prima aveva proposto delle aperture, addirittura addirittura pensava del voto alle donne, sì. E insomma però e anche altre, che però poi invece ha risposto alla piazza, l'abbiamo letto dai giorni di oggi, con la repressione. Il Bahrain lo stesso, tra l'altro c'è questo elemento importante che cerchiamo di capire, come stanno cercando i regimi, e anche appoggiati da molta stampa anche occidentale, di trasformare una delle rivolte che secondo noi sono tutte sociali, economico-sociali, quindi dal basso, dal basso appunto, come invece dinamiche religiose. Per esempio si continua a dire che nel Bahrain lo scontro è tra sciiti e sunniti. Basta leggere la carta di rivendicazione di questi movimenti in Bahrain e non parlano assolutamente di, non c'è la parola religione né Islam, manco una virgola. Si parla di un welfare, cioè un sostegno alle famiglie povere, libertà di stampa, libertà d'associazione, voto alle donne. Che cazzo c'entra questo con la religione? Però i giornali italiani, quelli più squallidi, come tutti, sono tutti, continuano a dire, anche in Arabia Saudita cerca di buttarlo sullo scontro tra sciiti e sunniti. Anche in Arabia Saudita chiedono rivendicazioni che sono esattamente rivendicazioni di classe, senza nessun oppure se vogliamo democratiche, però insomma senza nessun elemento di carattere religioso. In Egitto addirittura, e questo sappiamo per certo perché l'abbiamo sentito ieri Sharif, adesso ne parleremo un po', il tentativo di dare molto risalto a uno scontro avvenuto in un villaggio sperduto, in uno scontro tra due famiglie, una lite, una faida tra due famiglie rispetto a un rapporto di amore tra due ragazzi non tollerato dalle famiglie, cose che succedono in tutto il mondo, è stato fatto passare come uno scontro religioso, no? Cristiani copti contro musulmani, cosa non vera. Questo perché? Perché si vuole togliere l'elemento centrale, che è la protesta socio-economica che si sta sviluppando. Sì, ci sono una serie di problemi inerenti anzitutto appunto alla rappresentazione che noi abbiamo di quelle realtà, e i media, come l'unità di misura, le unità di misura che i media hanno per definire questi conflitti, le tensioni che si sono verificate nelle ultime settimane. L'approccio, diciamo, il binomio cristiani-musulmani è un qualcosa che va avanti ormai da più di un secolo, è una visione semplicistica che permette però ai media occidentali di inquadrare tutti questi conflitti in una logica assolutamente estranea a quanto in realtà sta accadendo. Sono in realtà come dire, rivendicazioni molto simili alle nostre, nel senso che riguardano anche rivendicazioni di carattere socio-economico che vengono invece completamente ignorate, come fu fatto per l'Egitto dal 2004 al 2008, quando le mobilitazioni, come lo abbiamo spesso ricordato, erano prettamente di carattere socio-economico, soprattutto nelle regioni industriali, e sono state appunto puntualmente ignorate dai media. Così adesso ci si concentra principalmente su queste tensioni di carattere privato, che in realtà poi sono sfociate, almeno secondo i media, in qualcosa di più, in qualcosa di più generalizzato. Qual è il problema? Il problema principale è quello appunto che affrontammo noi ieri con Sheriff durante questa iniziativa che è stata appunto promossa dal collettivo Partizan al Forte Prenestino, e dove abbiamo fatto appunto una corrispondenza con questo giornalista che avevamo già sentito in precedenza dai nostri microfoni. La parola che viene subito alla bocca da Sheriff, ma non solo, è appunto controrivoluzione, e accanto a questa strategia della tensione. Perché? Perché la stessa società egiziana, o meglio gli stessi apparati che controllano, che hanno controllato per decenni la società egiziana, sanno benissimo come noi, tra virgolette, occidentali possiamo leggere o potremmo leggere la situazione, metterla su un piano di conflitto interetnico, di conflitto interreligioso, come spesso accade non solo per le questioni del Nord Africa, ma anche per le questioni dell'Africa subsahariana. È una visione appunto semplicistica che permette però agli stessi regimi di fare quello che vogliono. Lo stesso pericolo islamista, più volte paventato dagli anni 80 in poi in moltissime realtà del Nord Africa, ha permesso a questi regimi di sopravvivere, anzi di rafforzarsi, legittimati dalle potenze occidentali. Ricordiamolo come Ben Ali in Tunisia dall'87 era considerato, fino appunto agli ultimi giorni prima della sua fuga, come il principale baluardo contro l'islamismo politico in anche Tunisia, l'Algeria, e la stessa Algeria, assolutamente. Quindi in realtà questo era un modo, e per questo lo si legittimava. Si diceva sempre Ben Ali è stato colui che è riuscito ad allontanare il militantismo islamico dalla Tunisia, e quindi per questo aveva il pregio ed era legittimato a governare, seppur con mezzi autoritari, la popolazione tunisina. Sheriff ieri ci ha parlato appunto di strategia della tensione, soprattutto di controrivoluzione, e ci ha detto che da venerdì scorso in realtà la situazione è davvero delicata, è il momento ora di essere molto attenti su quello che sta accadendo in Egitto. Perché? Perché dopo la prima rivendicazione ottenuta dalla piazza, ovvero la caduta del governo guidato da Ahmad Shafik, che era appunto il primo ministro messo lì da Mubarak negli ultimi giorni prima della sua fuga, la piazza appunto aveva ottenuto la sua caduta, era stato messo sotto nomina appunto dal Consiglio delle Forze Armate un esponente della piazza, o comunque un nome gradito alla piazza, questo Essam Sheraf, che aveva partecipato a dei governi di Mubarak, ma che poi si era dimesso dopo il 2004-2005, era stato ministro dei trasporti, e che nelle ultime settimane di manifestazioni di mobilitazione prima della caduta di Mubarak era sceso in piazza accanto ai manifestanti. Quindi dopo questo primo obiettivo raggiunto, la parola d'ordine della piazza è quella appunto dello smantellamento delle forze di sicurezza egiziane. Le forze di sicurezza egiziane, quindi la polizia cosiddetta di sicurezza, come viene definita anche dallo stesso, è stata definita così dallo stesso Sheriff, è un corpo che dipende direttamente dal ministro dell'interno e che ha una storia tutta sua, tutta particolare, parallela alla vita dell'esercito, ma non forzatamente unita. Si parla più o meno in alcuni studi che sono stati fatti da alcuni quotidiani egiziani di un corpo di 100.000 effettivi all'incirca, quindi stiamo parlando di un numero davvero importante. Polizia che ha una storia tutta sua rispetto all'esercito, dicevamo, che già dagli anni 50, all'epoca appunto del periodo nasseriano, aveva una sua forza, seppur relativa, forza che è cresciuta a livello esponenziale soprattutto dagli anni 70 all'epoca di Sadat, quando dal 74 in poi si attuò una ristrutturazione dell'organigramma del Ministero dell'Interno, con appunto poteri maggiori accordati a questa polizia di sicurezza che gestita dallo stesso Ministero. Una ristrutturazione che voleva e aveva come scopo principale quella di controllare maggiormente l'attività politica interna all'Egitto, e non solo quindi motivi di sicurezza, diciamo, nazionale, ma proprio un controllo stretto, un controllo importante di qualsiasi tipo di attività politica e anche dei movimenti che dal basso si creavano. Nonostante questo, no, ciò non ha impedito che nell'81 lo stesso Sadat rimase vittima della sua guardia del corpo. Assolutamente. Perché chi l'ha ucciso è stato uno. Sì, perché i gruppi militanti radicali che proliferarono dalla seconda metà degli anni 70 in Egitto, quindi al di là della galassia dei fratelli musulmani, gruppi che in realtà contestavano gli stessi fratelli musulmani perché considerati troppo moderati, erano in realtà dei gruppi che avevano consensi anche all'interno delle forze armate, soprattutto appunto il gruppo Al-Jihad al-Islami, che poi sarà appunto il protagonista dell'assassinio di Sadat. Era un gruppo che affermava una lotta militare, una vera e propria lotta militare contro lo Stato egiziano e soprattutto la decapitazione del cosiddetto faraone. Quindi secondo loro la rivolta, la rivoluzione, la costruzione di uno Stato islamico della seconda metà degli anni 70 in Egitto doveva avvenire attraverso la decapitazione dello Stato egiziano. Così naturalmente non è avvenuto, nel senso che sì, il regime ha perso la testa, ma ha continuato a sopravvivere sotto appunto altre vesti con Mubarak. Diciamo appunto della ristrutturazione di queste forze di polizia, di questa polizia di sicurezza, una ristrutturazione che poi, quindi un rafforzamento, un potenziamento che dagli anni 70 in poi non ha mai cessato di effettuarsi, di prodursi anche all'epoca di Mubarak, soprattutto dal 2000 in poi. Ricordiamo che la prima fase di Mubarak, ovvero dall'81 fino appunto all'inizio degli anni 90, era una fase abbastanza morbida. Lui aveva riconosciuto comunque una certa libertà di movimento ai fratelli musulmani, ad altre forze politiche, accanto ad un processo di liberalizzazione economica. Dagli anni 90, con gli attentati di Luxor, gli attentati islamisti più marcati, che avevano anche colpito uno dei settori chiave dell'economia egiziana, quindi il turismo, lì Mubarak approfittò della situazione da una parte per controllare maggiormente tutti i movimenti di opposizione, in primis gli islamisti, dall'altra, rafforzando quindi queste forze di polizia, riuscirà ad estendere un controllo maggiore anche nei momenti di maggiore contestazione che si verificheranno dall'inizio del 2000, dal 2000 in poi. Soprattutto le forze di polizia in quel momento concentrarono i loro sforzi, quindi di repressione, di controllo, verso quei movimenti per i diritti civili, come appunto Kifaya, un movimento abbastanza elitario che si sviluppò dal 2004 in poi e che per primo rivendicò la fine dell'era Mubarak, almeno dal punto di vista istituzionale, senza troppe rivendicazioni di carattere sociale in realtà, e quindi si concentrarono sull'attività di questi movimenti più elitari, che avevano però una fortissima visibilità a livello internazionale. Accanto a questo poi svilupparono una fortissima azione di repressione anche all'interno di alcuni partiti che erano considerati alternativi, almeno dall'opinione pubblica egiziana, al PND, il Partito Nazional Democratico di Mubarak, come per esempio il partito Ghad, che significa domani, e che stava appunto acquistando visibilità a livello internazionale. Ancora nel 2010, durante le elezioni che sono state fatte ultime prima delle insurrezioni, delle mobilitazioni, è stata la polizia di sicurezza che ha soffocato e ha represso nel sangue, con arresti arbitrari, anche molti esponenti delle opposizioni che volevano partecipare ai processi elettorali. Quindi insomma un corpo che ha preso sempre più piede all'interno dello scenario politico egiziano come protagonista per soffocare qualsiasi tipo di protagonismo alternativo a quello di Mubarak. Con Sheriff ieri abbiamo parlato del ruolo della polizia di sicurezza e anche del suo rapporto con l'esercito. Naturalmente si possono avere anche opinioni differenti da questo punto di vista. Al mio avviso, Sheriff, insomma, sottolineava l'importanza e il ruolo a livello simbolico che ha giocato l'esercito e che gioca tuttora all'interno della società egiziana. Perché? Perché, come diceva lui, l'esercito in Egitto rappresenta l'autonomia e l'indipendenza di fronte al colonizzatore, ma non solo, rappresenta il nome dell'Egitto nelle guerre che fino agli anni 70 ha combattuto direttamente, non come appunto sottolineava Sheriff, distinguendosi appunto dalle operazioni di peacekeeping, stiamo parlando di appunto azioni militari contro l'esercito israeliano. Quindi ha un'immagine all'interno nel sentimento nazionale molto, molto positiva. Anche perché ha pagato pesantemente in costi, soprattutto alla guerra del 67. Ricordiamo che la rete ha avuto tanti morti l'esercito egiziano, molti di più di tutti gli altri eserciti arabi che in maniera un po' finta hanno partecipato alla guerra. In realtà il grosso costo l'ha subito l'esercito siciliano con un alto numero, quindi in qualche modo poi l'esercito, essendo un esercito molto popolare, addirittura contadino, rappresenta un po' un cemento, quindi una sorta di Poi oltretutto la stratificazione che viene, cioè gli effettivi dell'esercito egiziano sono numerosissimi, quindi dobbiamo fare una vera distinzione tra l'elite dell'esercito e la base. Il soldato semplice non ha gli interessi e le mani in pasta all'interno di quei settori dell'economia egiziana che invece appartengono appunto all'elite dell'esercito e quindi anche al Consiglio Supremo delle Forze Armate, che oggi sta gestendo la fase di transizione. Ora, dopo appunto venerdì scorso c'è stata questa, sono cominciati degli apparentemente strani momenti di tensione tra alcuni gruppi, chi li definisce paramilitari, chi appunto sospetta della polizia di sicurezza di cui stavamo parlando in questo momento. Comunque, dei momenti di tensione che hanno investito principalmente due settori della società civile egiziana, diciamo, da una parte le donne, dall'altra appunto i copti, i cristiani copti, no? Parlava Salvatore prima, accennava a questa controversia privata che poi in realtà è sfociata in manifestazioni di piazza, perché fino a ieri era il sesto giorno di manifestazioni di alcuni gruppi di copti nel appunto Midan Tahrir, ma non solo, per le strade del Cairo. Si parla appunto di questa chiesa bruciata in un quartiere a nord del Cairo, della Mokattam, che è un quartiere a prevalenza cristiana copta. Ci sono una serie di tensioni, di episodi che si sono verificati negli ultimi giorni e che vengono interpretati da Sheriff, ma non solo, come in realtà una strumentalizzazione, una politica che alcuni apparati fedeli all'ex Rais, ma non solo, quindi al regime in sé, che poi può anche non essere, non affiancarsi insomma al nome di Mubarak, stanno tentando per aumentare la tensione, per far vedere, per mostrare all'Occidente un'instabilità, no? E quindi anche un'incapacità da parte della piazza di gestire questa situazione per permettere un sostegno internazionale, esatto, magari ad una controrivoluzione. Ecco, infatti a me mi pareva di cogliere sempre ieri, nel lungo intervento che ha fatto Sharif, sottoposto appunto a una serie di domande per approfondire, la sua, come dire, la necessità sua, ma un po' di tutti, di mantenere alta la mobilitazione, perché è l'unico modo per far appunto, diciamo, annullare queste provocazioni, questi tentativi. Però mentre appunto si rendono conto, credo, e questa è una consapevolezza molto interessante su cui bisogna riflettere a fondo, loro si rendono conto che la mobilitazione della piazza non potrà essere permanente e quindi vogliono trasformare questa mobilitazione della piazza nella creazione, mi pare che lui centrasse molto il problema, dice adesso stiamo riorganizzando i partiti. Ora noi dobbiamo tenere presente che noi intendiamo, noi quando sentiamo la parola partiti abbiamo un senso di ripulsa, perché i partiti qui in Europa, in particolare in Italia, sono una cosa vergognosa. Però considerate invece una società che fino a ieri è vissuta, proprio fino a un mese fa, con un partito unico, un dittatore, un despota e uno stato centralizzatore, cioè rimettere la pluralità dei partiti, quindi come espressione della società civile, delle classi reali, quindi la costruzione dell'identificazione di classi per una popolazione che non l'ha mai avuta, perché ha avuto sempre da Nasser, che chiamava il popolo egiziano contro, no, sì, sì. Quindi questa confusione è un problema interessante, credo. Tant'è vero, e lui parlava di nove partiti, mi pare, adesso, di cui addirittura una domanda precisa che gli facevi tu, se pensassero o meno questi partiti di radicarsi nel territorio, un po' come l'Europa alla fine del secondo conflitto mondiale, i primissimi anni, dove veramente la realtà partecipava al dibattito politico nelle varie sezioni che punteggiavano tutte le realtà, cioè c'era la vita collettiva, viveva in queste, nelle sezioni dei partiti, che poi si riverberava nelle piazze. Ecco, come il tentativo di voler trasformare l'insurrezione di piazza, che è stata il primo mese, in una cosa più articolata, in cui che desse voce ai vari settori che hanno composto questa unità popolare, che però adesso prenderà le sue diverse segmentazioni, perché è segmentato il cosiddetto popolo. Sì, il problema è quello, la necessità poi di una struttura radicata nel territorio. Ora, qual è il problema? È che fino ad oggi l'unica struttura che ha garantito, anzi le uniche due strutture che hanno garantito una capillarità nel territorio sono state, da una parte, il PND, il Partito Nazional Democratico di Mubarak, dall'altra i Fratelli Musulmani. Fratelli Musulmani che, questo dagli anni 30, dall'inizio, hanno, e poi con una pausa durante la repressione di Nasser e del, appunto, di Sadat, avevano comunque costruito una rete, un Nizam, come si chiama, appunto, un apparato, una struttura che permetteva loro di coordinare, da una parte coordinare le differenti, i differenti rami dell'organizzazione dei Fratelli Musulmani, dall'altra di mantenere appunto un rapporto costante con il basso, con il territorio. Ecco, questo qui, come diceva Sheriff ieri, è un problema che si stanno ponendo gli egiziani in questo momento, perché la politicizzazione che può essere avvenuta giustamente durante queste manifestazioni di piazza delle ultime settimane non deve andare dispersa, no? Si deve comunque coagulare poi e concretizzare in qualche forma di organizzazione. Ora, come diceva giustamente Salvatore, al di là del sentimento di fastidio che noi possiamo avere nei confronti di partiti, perché qui in Italia ha maggior ragione, ma sono lontani dalle esigenze della popolazione, fanno discorsi astratti, è completamente assente il sentimento di partecipazione, perché non è la strada che detta, diciamo, la linea di un partito, ma la linea del partito è dettata, di qualsiasi partito, è dettata dall'alto per convenienze personali. Lì in Egitto la struttura partito ha ancora una funzione importante, può avere una funzione importante per due motivi. Primo, perché, come si diceva anche ieri, diceva un compagno ieri, il concetto di solidarietà in Egitto, come in tutto il mondo arabo-islamico e non solo, è un concetto ancora forte. I legami familiari, ma non solo, i legami di solidarietà, insomma, che si estendono all'interno di un territorio sono molto forti. Questo non vuol dire parlare di tribale, clanico, insomma, è un po' ormai anche lì una mezza stronzata, scusate il termine, ma c'è una fortissima solidarietà interpersonale che si crea a livello territoriale. Ecco, in quel tipo di solidarietà, in quel tipo di rete, di network, di persone, di contatti, il partito come sezione, come esponente di un determinato quartiere può avere una funzione importante. Naturalmente, come si diceva pure ieri, Sheriff lo sottolineava, non bastano 4 mesi per la costruzione di una struttura ex novo. Quindi lui parlava appunto di Partito Socialista, di Partito Comunista, Partito Nasseriano, accanto naturalmente alla struttura dei Fratelli Musulmani che è già presente. Ci vuole un lavoro importante sul territorio da parte delle persone che decideranno di assumere un'idea, appunto un programma all'interno del panorama politico egiziano. Quindi questo naturalmente è un lavoro molto lungo, che però parte da un presupposto importante, che è quella politicizzazione che gli egiziani hanno comunque costruito nelle ultime settimane. Politicizzazione che, ricordiamolo, è stata generalizzata e stratificata, nel senso che tutte le classi sociali hanno partecipato a questo tipo di movimento per cacciare, no, Mubarak. Adesso la questione sarà appunto come questa moltitudine, se vogliamo usare un termine un po' abusato e teorizzato anche qui in Europa, riuscirà poi dopo però a prendere delle linee, delle direttive più definite. Che poi si devono definire appunto gli obiettivi, che non saranno gli stessi per tutta l'area che ha partecipato, perché identificandosi gli interessi di classi, per esempio la realtà suburbana del Cairo, credo che abbia, cioè la realtà, diciamo, di quella vasta area, sono circa 10 milioni, pare, sì, al Cairo, che in tutto ne conta 25, che vivono di di espedienti, o comunque di un'economia, cioè, davvero sommersa, semiproletari, sottoproletari, queste esigenze di questi, dall'altra parte le aree industrializzate, così come i settori anche del commercio, ciascuno produrrà dei propri obiettivi, e su questi obiettivi perché adesso, oltre a mandare via Mubarak, devono definire gli obiettivi di una politica economico-sociale che con difficoltà dovrà essere messa in campo. Sì, bisogna fare poi attenzione anche alle pratiche politiche che sono state adottate fino adesso, almeno fino al momento in cui Mubarak era al potere dal basso, intendo sempre pratiche politiche dal basso. Qual era la struttura politica che reggeva dal basso questo apparato immenso del PND, del Partito Nazional Democratico? Vi erano degli esponenti del PND per ogni quartiere. Questi esponenti non erano visti tanto per la loro ideologizzazione, come poteva essere per esempio per gli esponenti dei Fratelli Musulmani, che hanno un'ideologia, per quanto ambigua, abbastanza definita, no? Dall'alto, con una fortissima legittimazione religiosa. Gli esponenti del PND a livello locale erano esponenti che si ponevano di fronte alla piazza, di fronte al territorio, come garanti di servizi. Votare un esponente locale del PND per la propria elezione significava poter ottenere o meno dei determinati servizi, per quanto puntuali, ma stiamo parlando anche dell'accesso all'acqua. Non tutto il Cairo, per esempio, Alessandria o altre città hanno un'infrastruttura di trasporto, di conduzione dell'acqua come possiamo immaginarlo noi. Stiamo parlando di piccolissimi, di micro obiettivi che comunque alla popolazione, al sottoproletariato egiziano, per esempio, potevano tornare utili, soprattutto perché nei momenti in cui c'erano le elezioni dei consigli cosiddetti municipali, è lì che si attivavano questi rappresentanti locali. E la popolazione molto spesso, in un rapporto clientelare che comunque non deve essere demistificato, perché da quel punto di vista la popolazione aveva un suo potere decisionale per quanto minimo, e fino adesso sono rimasti, hanno adottato questo tipo di logica da sempre. Insomma, nella seconda generazione degli esponenti del Partito Nazional Democratico vi erano questi uomini dei businessmen, che erano appunto personalità dell'alta finanza o comunque grandi imprenditori, che infatti hanno adottato questo tipo di pratica per ottenere posti ed entrare all'interno del Parlamento durante l'epoca di Mubarak come indipendenti. Questo perché? Perché lì entrarono loro in realtà in rotta di collisione con lo stesso partito, non per qualche motivo ideologico, ma solo per ottenere garanzie di potere. Che cosa facevano loro? Si candidavano come indipendenti, riuscendo appunto, tra virgolette, a garantire servizi qualora fossero eletti alla popolazione, e poi dopo, una volta ottenuto un risultato importante, si facevano riassorbire dal PND, dal Partito Nazional Democratico, e quindi diventavano parte integrante del regime. Questa logica, in parte anche parassitaria, della popolazione e anche naturalmente degli esponenti politici, fu adottata dagli stessi Fratelli Musulmani, che proprio nelle ultime elezioni del 2005, quando riuscirono a ottenere 88 seggi all'interno dell'Assemblea del Popolo, stiamo parlando di un quinto dei seggi totali, un momento diciamo importantissimo per la storia dei Fratelli Musulmani, almeno per la loro storia politica, ottennero questo risultato. Perché? Perché loro sfruttarono quella grande struttura, quel grande nizam assistenziale, secondo la stessa logica che veniva adottata dal PND. Ora, questo tipo di pratica politica, naturalmente, in questo nuovo momento non sappiamo quanto potrà essere rinnovata o meno, perché bisognerà vedere se i partiti nuovi che nasceranno adotteranno una politicizzazione o comunque una praxis politica diversa rispetto a quella che è stata adottata fino a questo momento. Certo è che il momento di rottura permette dei canali di espressione sicuramente più diversificati, una maggiore libertà anche di rivendicazione dei propri diritti. Ieri parlavamo con Sherif della moltiplicazione di giornali nuovi, parlavamo della libertà di stampa, una libertà che non potrà a suo avviso essere cancellata nel breve periodo, e che alimenterà da una parte la frustrazione, dall'altra anche le rivendicazioni della popolazione. Accanto a questo anche la proliferazione di sindacati indipendenti che stanno tentando di scalzare la federazione di cui parlavamo anche la settimana scorsa. Il sindacato di Stato che copriva tutti i settori della... E questo sarà interessante se prenderà corpo, e quando prenderà corpo, perché appunto metterà in moto quello che sarà la vera dialettica sociale, o se vogliamo lo scontro di classe, nel senso che non saranno gli stessi gli obiettivi, per esempio, del settore del commercio rispetto, o del settore dei proprietari delle strutture di commercio rispetto ai dipendenti, oppure i lavoratori diciamo più o meno salariati rispetto invece ai non salariati. Ecco, quindi sarà interessante vedere. Ora, qui rispetto a questo problema va visto quanto oggi, perché poi quello che aspetto, cioè, l'abbiamo fatto all'inizio, però va tenuto presente il quadro economico che sovrintende a tutti questi paesi, no? Cioè, assolutamente. Diciamo, la sofferenza che ha fatto scatenare queste rivolte, che era vecchia di anni, però si è incendiata in questi ultimi tempi, dove è dovuta anche al fatto che diciamo in questa fase di liberismo sfrenato, il lungo andare ha tolto agli stati, anche se lo volessero, in qualche caso lo facevano per consenso, avere degli strumenti per il controllo dei flussi di capitali e quindi mantenere, togliere ai flussi di capitali un minimo di, diciamo, di energie, sì, per poter, ecco, con l'ultima fase del liberismo, la più sfrenata, che tra l'altro problemi ce l'ha anche l'Europa, figuriamoci i paesi invece che stanno, questi paesi hanno, gli stati non hanno avuto, i governi non hanno avuto più proprio margini per poter, anche se l'avessero voluto, dare dei qualche cosa. Quindi il problema torna a un quadro internazionale economico e quindi anche alla crisi, se vogliamo. Assolutamente. No. Crisi che non è che va come raccontano i giornali italiani. Questa è una crisi di ridefinizione, non è vero che poi riprenderà tutto. Cioè, voglio dire, le multinazionali che per esempio stanno in Tunisia e in Egitto, non sono controllate assolutamente dallo Stato, quello ormai che verrà, o dal governo che verrà, non più. E quindi come può trovare, a meno che non si mette in modo proprio una dinamica di grosso cambiamento, per cui voglio dire, c'è un'oggettività nella radicalità della trasformazione che sta in questa vicenda. Cioè, se anche il governo fosse il più buono di questo mondo in Egitto e volesse fare sviluppare il miglior welfare possibile immaginare, non lo può fare, no, non c'è non margine, non se lo potrebbe più permettere. E allora che cosa tocca fare? Appunto, quindi i problemi sicuramente arriveranno alla corda tesa, cioè a un punto in cui si metterà in discussione l'assetto economico mondiale. Assolutamente, perché la politica liberista di Mubarak, soprattutto degli ultimi 10 anni, è stata una politica ancora più scellerata, perché non intelligente, nel senso che non ha mantenuto più il controllo che aveva prima, per esempio, del 51% di molte imprese. Sì, che era la logica precedente, appunto. Per esempio, c'è stata un'intervista interessante pubblicata su questo quotidiano, il Masri Yaum, di un ex ministro dell'economia di Mubarak, che appunto parlava di questa fase di privatizzazione di alcune industrie nazionali che è avvenuta appunto soprattutto dalla seconda metà degli anni 80 e con un'accelerazione fortissima negli anni 90 e dall'inizio degli anni 2000, diciamo, no? Ci sono appunto alcuni settori come per esempio quello del farmaceutico, dei fertilizzanti, del cemento, dell'acciaio. Quindi l'ex ministro si chiamava Mahmoud Mujahedin e lui era contrario a questa politica di liberalizzazione sfermata e di vendita di tutti i settori, perché riteneva, non che fosse un compagno, riteneva che comunque lo Stato egiziano dovesse mantenere un'importante quota di queste industrie per gestire appunto la conflittualità sociale e avere un potere di contrattazione nei confronti delle spinte dal basso. Questo non è avvenuto sotto le spinte del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale. L'Egitto ormai da questo punto di vista è completamente indebitato e asservito all'economia globale, e allo stesso tempo la dipendenza dagli aiuti degli Stati Uniti. Senza questi aiuti l'Egitto oggi crollerebbe con questo sistema, crollerebbe in toto. Quindi per ora il protagonismo della piazza è tale anche perché questi argomenti non si stanno toccando. Nel momento in cui le rivendicazioni salariali degli operai, per esempio, non potranno essere, non potranno ottenere nessun risultato, perché l'Egitto non può permetterselo, il Fondo Monetario Internazionale parla di piani di austerità per l'Egitto da 15 anni a questa parte, e quindi in realtà più che concedere l'Egitto dovrebbe tagliare ancora di più. No? Abbiamo parlato, poi loro hanno dei beni di prima necessità che sono, i cui prezzi sono calmierati, il pane, zucchero, come appunto anche era successo in Tunisia. Quando tutto questo si mette invece di fronte allo squalo della speculazione internazionale, lì tutto questo cade e lì davvero succederà ci dovrà essere assolutamente una seconda fase di malcontento che potrà sfociare in uno spontaneismo ancora più teso e ancora più acceso rispetto a quello. Ancora peggio in Tunisia, perché il governo tunisino, al di là delle ruberie, delle malversazioni di Ben Ali e senza nessuna giustificazione, però in realtà si era completamente messo in mano delle multinazionali, sperando che le promesse che gli avevano fatto, per esempio sull'apertura dei call center, è stato uno degli elementi centrali, perché alcune multinazionali, la Telecom Francia aveva promesso a Ben Ali di mettere i call center tutti in Tunisia, visto che sapevano il francese, gli andava bene, a prezzi ovviamente ridotti, e quindi Ben Ali ha messo a movimento un sacco di ragazzi, li ha fatti studiare per informatica. A un certo punto sta multinazionale ha fatto marcia indietro indietro, e quindi sono rimasti questa promessa, e lì è esploso il, cioè voglio dire, stai, quando stai completamente in mano di questi squali criminali, perché sono dei criminali, è chiaro che il problema è irrisolvibile sul piano della mediazione, perché ieri è venuto pure il problema, c'è possibilità di mediazione di questi scontri o no? La possibilità di mediazione non è solo sul piano politico astratto, ma sul piano della concretezza, se c'hanno i margini, con una pressione puoi ottenerla, come si è ottenuto negli anni 60, quando le politiche degli stati in qualche modo governavano l'economia, quindi se tu premevi ottenevi, perché c'erano, adesso non ci stanno, no, quindi no. Il cambiamento deve essere radicale, e secondo me attiene un po' al quadro internazionale dell'assetto imperialistico capitalista, perché poi se non riprendiamo questi due termini non sì, abbiamo chiaramente d'accordo con te. No, perché poi il problema è sempre lo stesso, quando cioè quando Sharif predica prudenza, no, predica, almeno questo ci diceva ieri, nel senso dice, è un momento, è ancora troppo presto per parlare di dei partiti, e poi naturalmente aggiungeva la volontà di questi partiti di strutturarsi sul territorio, è troppo presto per parlare, ce lo diceva anche altre volte, di macro situazione, no, pensando sempre molto al locale. Questo è normale, una mobilitazione come quella egiziana sta andando appunto per gradi e sta ottenendo dei piccoli risultati. Naturalmente noi, per un approfondimento necessario, dobbiamo pensare a lungo periodo, dobbiamo riflettere su quello che potrà accadere nei prossimi anni, perché non si tratta di qualcosa di appunto di immediato, no? Ora, tornando però, e questo lo si vede anche poi su un contesto internazionale, anche politico, non solo economico, perché le spinte dal basso dovranno prima o poi anche prendere posizione su alcune questioni di carattere internazionale, come il conflitto arabo-israeliano, come la vicinanza per esempio o la relazione dell'Egitto con gli altri stati arabi. Se pensiamo che proprio due giorni fa c'è stato una sorta di riavvicinamento tra la Siria e quindi il presidente della Siria, Bashar al-Assad, nei confronti del capo ad interim del Consiglio Supremo delle Forze Armate, Tantawi, ricordiamo che vi era una situazione di tensione tra i due paesi dal 2006 in poi, quando l'Egitto criticò apertamente il movimento di Hezbollah in Libano per il suo atteggiamento nei confronti di Israele. Quindi dei rapporti molto freddi che cominciano ora a distendersi. Da una parte questo ci potrebbe far riflettere sulla politica di avvicinamento, di riavvicinamento dell'Egitto al fronte arabo, o meglio a una eventuale o potenziale ricostruzione di un fronte di stati arabi contro su modello nasseriano. Questo forse è una speranza un po' eccessiva, però ecco, da questo punto di vista poi la popolazione, per le richieste che ha fatto e che ha saputo fare in queste ultime settimane, prenderà sicuramente anche una posizione più netta anche nei confronti del problema arabo-israeliano. Allo stesso tempo si sta facendo ora una conta anche in maniera più precisa dei morti che comunque sono stati, che si sono prodotti durante queste settimane di mobilitazione. Una coalizione di organizzazioni per i diritti umani ha fino adesso contato, se non sbaglio, 684 morti durante le manifestazioni di piazza. In realtà il numero sembra ancora un numero provvisorio che dovrà essere rivisto verso l'alto, purtroppo. Però questo porta a delle reazioni importanti da parte della popolazione, che più sente quello che è avvenuto, nel senso i morti che ci sono stati, il sacrificio che è stato prodotto, più sente risentimento verso quegli apparati repressivi che ancora sono lì al potere, ed è per questo che si continua ancora nella contestazione della polizia di sicurezza, ed è per questo che molti esponenti anche politici iniziano a parlare veramente, come diceva lo stesso Sharif, di una controrivoluzione in corso. E il Baradei stesso ha detto, uno dei leader uno degli leader nominati dall'esterno più che altro delle rivolte egiziane, ha parlato appunto del pericolo di appunto che la rivoluzione del 25 gennaio fosse comunque strumentalizzata e fosse annullata o comunque repressa attraverso un tentativo controrivoluzionario. Lo stesso hanno detto i fratelli musulmani, anche altri rappresentanti della chiesa copta. Quindi c'è una percezione di qualcosa che si sta muovendo alternativamente alla piazza per riprendere il controllo della situazione. Altre questioni che Sharif ha posto, magari le mettiamo, ci prendiamo un piccolo stacco musicale e poi va bene. Riprendiamo dopo questa pausa musicale per fare un attimo, per concludere su alcuni argomenti che avevamo detto, avevamo accennato all'inizio della trasmissione. Anzitutto sulla questione delle donne. Ecco, la questione delle donne fa parte, secondo Sheriff, secondo la testimonianza di Sheriff di ieri, ma anche secondo noi, di questa strategia della tensione. Martedì 8 marzo, l'avevamo annunciato sabato scorso, c'è stata una manifestazione delle donne in piazza Midan Tahrir che rivendicavano una maggiore partecipazione a livello politico per due motivi. Anzitutto perché nelle commissioni che sono state nominate dal Consiglio Supremo delle Forze Armate per emendare la Costituzione egiziana, che ricordiamolo è in vigore seppur con molti emendamenti dal 71, le commissioni che sono state nominate non hanno visto la partecipazione delle donne, nel senso che sono state completamente escluse da qualsiasi tipo di processo di modifica costituzionale. Le richieste delle donne però non erano solo inerenti proprio il processo di emendamento della Costituzione, o meglio le commissioni che erano state nominate dal Consiglio Supremo. La critica che viene fatta dalle donne egiziane viene fatta anche soprattutto su alcuni articoli fondamentali della Costituzione, soprattutto l'articolo 2, che rivendicava come prima fonte del diritto egiziano la Sharia. Questo naturalmente porta contestare questo articolo significa naturalmente contestare una legittimazione religiosa che, seppur per compromesso, è stata fatta dagli anni 70 in poi, dall'epoca di Sadat, che voleva, ricordiamolo, far aumentare il peso degli islamisti nel panorama politico egiziano in funzione antinasseriana, però che è rimasta in vigore e che quindi vede le donne oggi discriminate in maniera pesante. Tutta la vicenda della testimonianza di una donna che vale la metà di quella di un uomo, sì, quindi è pesantuccia. Sì. Poi appunto, come tutti i discorsi religiosi naturalmente, perché queste stesse affermazioni vengono fatte anche, seppur in maniera diversa, sull'inferiorità della donna anche nei testi sacri della religione cristiana cattolica, però tutti i discorsi religiosi sono passibili di interpretazione. Allora il processo di interpretazione che è stato fatto, diciamo, per scendere a compromessi naturalmente dalla religione cristiana cattolica in particolare negli ultimi secoli non è avvenuto nel pensiero, o meglio nel pensiero istituzionale coranico, perché ci sono in realtà pur vero che in Europa, diciamo, questa interpretazione è venuta dopo che ai prelati è stata tagliata la testa, assolutamente, più o meno, no? In Inghilterra e in Francia, così, da noi in Italia un po' di meno, però qualcuno l'hanno impiccato. Insomma, è chiaro che i processi poi di conoscenza vengono a seguito di processi di forza, insomma, sì, poi, sì, chi spera nel paradiso terrestre, vabbè, in pace all'anima sua, no? Beati loro, insomma, contenti loro più che altro. Quindi da una parte le donne quindi si sono mobilitate martedì e anche mercoledì scorso e hanno subito, purtroppo sono state oggetto di derisione e anche di insulti da alcuni gruppi presenti nella piazza. Naturalmente, come in molti casi, è difficile capire chi davvero sono questi gruppi che hanno tentato di allontanare le donne dalla piazza, anche perché le donne, ricordiamolo, hanno giocato un ruolo fondamentale durante queste mobilitazioni, sia nell'assistenza ma proprio per la loro combattività. Sheriff ci ricordava ieri di un esponente di spicco della società civile egiziana, una donna che ancora oggi è una delle leader del movimento del 25 gennaio, o come appunto ci ricordava anche il momento scatenante dell'insurrezione è stato proprio un appello di una ragazza molto giovane. Quindi in realtà il protagonismo delle donne c'è stato, e oggi si cerca di coartarlo o comunque di strumentalizzare anche lo stesso atteggiamento conservatore di una parte della popolazione egiziana, che non può non essere comunque non se ne può non parlare, effettivamente esiste, anche se ci sono stati dei momenti di apertura dagli stessi fratelli musulmani e dai gruppi più conservatori. Questa è una riflessione appunto sulle donne e su quanto sta avvenendo. Quindi questo scontro con le donne sembra anche questo far parte di un progetto di strategia della tensione che vedrà poi nei prossimi giorni quali esiti prenderà nei prossimi giorni. Quindi, per concludere un attimo questa discussione, continueremo ad aggiornarvi appunto sulla situazione egiziana. Io sto continuando personalmente a cercare di reperire materiale anche sulla Libia, però ammetto la difficoltà da questo punto di vista, perché come diceva Salvatore, lo scontro militare sta completamente oscurando le dinamiche interne al paese, quindi è davvero difficile. Anche ieri, quando parlavamo con Malek, questo ragazzo italo-libico, non è riuscito a dirci nient'altro se non appunto delle torture che Gheddafi ha sempre attuato negli ultimi giorni. Quindi in realtà questo lo sapevamo già, non era niente di nuovo. Quindi cercheremo appunto di continuare ad approfondire questa situazione, e cercando anche magari di estendere il campo visivo ad altre realtà del Nord Africa e dell'Africa subsahariana. Ok, ti ringraziamo Anthony, e vabbè, ci sentiamo sabato prossimo. Posso dire delle cose? Allora, secondo me una parte che va approfondita è appunto la crescita dell'autonomia sociale di questi paesi, nel senso, se cresce a partire, diciamo, dalla vita quotidiana un'auto-organizzazione sociale, e quindi non soltanto, diciamo, a livello politico, che renda questi paesi autonomi rispetto appunto ai giochi liberisti e alla crisi economica. Questa cosa ci riguarda molto, nel senso che riguarda tutti i paesi del Mediterraneo. Se si sposta, diciamo, l'asse dell'Europa dal nord Europa appunto al Mediterraneo, creando dei livelli di auto-organizzazione sociale e di autonomia sociale in tutti i paesi del Mediterraneo, questa cosa è di scambio a partire da questo. Questa cosa sarebbe una cosa importantissima. Quindi secondo me è interesse della radio, e non soltanto, di approfondire diciamo queste cose. Se c'è un livello di crescita dei comitati sia in Tunisia sia in Egitto su queste tematiche o no. Questa.